Quando il misterioso personaggio Gabriele Arcangelo le disse che sarebbe diventata, restando vergine, madre del Figlio dell'Altissimo, Gesù Cristo, Maria di Nazaret credette a occhi chiusi. Sapeva bene che questo sarebbe stato un fatto unico nella storia, proprio toccato a lei. In lei si sarebbe compiuta la promessa fatta da Dio per bocca del profeta Isaia. Dio sarà con noi, Emanuele, in Manuel, Dio con noi. E come verrà con noi? Chi lo genererà? Una vergine. E dopo secoli e secoli di attesa, ecco, tocca proprio a lei questa fortuna unica e irrepetibile. Maria di Nazaret credette a occhi chiusi. La sua parente Elisabetta le dirà: «Beata te che hai creduto, e così si compiranno in te le promesse, le attese dell'umanità, e tu davvero sarai la madre del nostro Creatore e Signore». A occhi chiusi, ecco Cristo crocifisso risuscita da morte, e la sera della Pasqua appare agli apostoli. Mancava tra gli undici Tommaso. Sparita l'apparizione di Gesù risorto, gli apostoli vanno in cerca di Tommaso. «Ma perché, dove sei andato tu? Oh, hai perduto una grande fortuna. Non l'hai visto risorto il nostro maestro?» «Oh, risorto», disse Tommaso, «chi può darmela da intendere? Ah, se io non vedo i fori dei chiodi nei piedi e nei polsi, e se io non tocco proprio la piaga del suo costato, io non credo che voi abbiate visto davvero Gesù, il maestro risorto. Io credo se vedo». 8 giorni dopo, il Signore Gesù, crocifisso e risorto, appare agli apostoli un'altra volta, e questa volta c'è anche Tommaso. E Gesù, entrando subito, si rivolge a Tommaso: «Guarda, Tommaso, metti pure qui le tue dita, tocca questi fori dei chiodi, metti pure qui la mano al costato, su, e credi, sii credente, non più diffidente». E Tommaso si avvicinò per toccare e s'accorse che veramente era il maestro risorto, e disse quella bella parola: «Signore mio e Dio mio». E Gesù, rivolto a lui, disse con la solennità di chi ha vinto la morte: «Tommaso, Tommaso, tu hai creduto perché hai visto coi tuoi occhi. Fortunati quelli che crederanno a occhi chiusi». Questo è il ricordo conclusivo. Credete, crediamo. Fidatevi, fidiamoci a occhi chiusi. A occhi chiusi si è fidata Maria di Nazaret. A occhi chiusi il Signore invita tutti noi a fidarci. «Tommaso, Tommaso, tu hai creduto perché ci hai visto proprio le mie piaghe, mi hai visto proprio risuscitato, mi hai visto coi tuoi occhi sbarrati, aperti, sbarrati. Ma makarioi, che vuol dire fortunati, benedetti, felici, coloro che crederanno a occhi chiusi».